cielo scende la benedizione, riempie il cuore e mi ristora l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù, la mia speranza sei solo tu. Alzo gli occhi al cielo, so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo. Preghiera giunge a te, Signore, mostrandomi ai tuoi piedi adorerò. Alzo gli occhi al cielo, so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adoro. Yeah.